sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Quando il sole del mattino ti sveglia, tu non vuoi lasciarmi andare via. Il tempo passa in fretta quando siamo insieme noi. È triste aprire quella porta, io resterò se vuoi. Io resterò se vuoi. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Siamo insieme noi, è triste aprire quella porta, io resterò se vuoi, io resterò se vuoi. Sei proprio tu, l'unica donna per me, il resto non conta se io sono con te. Non voglio andar via, se ti perdo non ho più nessuna ragione. Quando vai.